¿Loco? loco? Breaking out a little piece of my heart, yeah. No more pressure. Questo fatto l'umanità. Nessuno può fare niente. Non è più possibile. Questo fatto l'umanità. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente.

na na na na. Area. Murderer. Still. We'll be right back. Please let me be now. Let me be, let me be. Oh yeah. Let me be, let me be. Just let me be now. Let me be, let me be. Let's celebrate now. We'll be right back. let me be, let me be. Jesus.